America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero. I do start more self-portraits and destroy more than any other pictures because Quello che vi ho fatto sentire poteva sembrare così vagamente astratto ed è giusto che lo fosse, perché era un documentario su Lucian Freud, il grandissimo artista inglese morto nel 2011, un paio d'anni fa. Ecco, è stato un artista che, come dire, è esploso quando era già un po' in là negli anni, un artista che ha lasciato però il segno poi a livello globale, soprattutto grazie alla scoperta da parte di un gallerista americano che si chiama Bill Acquavella, come sentirete dal nome, è italo-americano, uno dei tanti italo-americani che si sono imposti al massimo livello del successo in America, in questo caso nel contesto artistico. Perché vi parlo di Lucian Freud, che è un pittore inglese nato in Germania, nipote di Sigmund Freud, fuggito dalla Germania quando ci furono le persecuzioni razziali? Perché proprio in questi giorni c'è stato il lancio in America, qui a New York, del libro Breakfast with Lucian, un ritratto dell'artista, che tra l'altro uscirà a settimane, credo, proprio con Mondadori in Italia. E New York è stato un punto di svolta chiave per Freud, proprio perché ha dato questa rilevanza, diciamo, globale e commerciale alle sue opere. E io ho qui con me ai microfoni di America 24 Jordi Gregg, che è l'autore del libro ed è la prima biografia, devo dire, autorizzata di questo grandissimo artista. Ma Jordi Gregg è anche un collega, perché è il direttore del Mail on Sunday, che è la, diciamo, la pubblicazione del weekend del Daily Mail, uno dei più grandi quotidiani britannici. Pensate, il Mail on Sunday vende 1.700.000 copie soltanto la domenica, 9 milioni di lettori anche attraverso internet. E quindi Jordi è qui con me e gli chiederò di raccontarci un po' com'è nato questo libro, perché la storia è molto curiosa. Buongiorno Jordi. Buongiorno Mario. So Jordi, how did you start to write a book about this man who was virtually reclusive? It started when I was 17, when I was taken from school to see an exhibition of paintings by Lucian Freud. Ecco, Jordi dice che questa sua storia con Lucian Freud comincia quando aveva 17 anni, quando va a una mostra dei suoi quadri e si accorge che sono dei quadri straordinari. Dice: sono stato travolto da questi quadri, erano gli anni 70, era l'era dei punk, e questi quadri erano dei quadri straordinari perché ponevano una gran quantità di domande senza che ci fossero delle risposte, c'erano dei ritratti senza che si sapesse chi fossero le persone oggetto del ritratto. Sono stato affascinato da questa cosa e ho cominciato a scrivergli, chiedendogli di incontrarlo senza che mai ci fosse una risposta. Bene, Jordi, poi però la risposta c'è stata. At a certain point he answered you back. It took me 20 years of stalking. Jordi racconta com'è nata questa cosa. Dunque, a 17 anni gli scrive, gli dice: no, poi a un certo punto lo incontra e dice: ho un'idea brillante, ma te la posso dire soltanto di persona. E Freud si incuriosisce, si vedono e gli dice: ma io ho questa idea, visto che non vuoi fare interviste, non vuoi fare fotografie, perché non facciamo una fotografia tua con Frank Auerbach, che è un altro pittore di origine tedesca, anche lui ebreo, anche lui scappato dai nazisti, che viveva a Londra, che era molto amico di Freud. E lui dice: stranamente mi ha detto di sì, e a quel punto mi ha dato appuntamento, abbiamo fatto questo incontro, abbiamo fatto questa foto, e da allora in avanti poi ci siamo visti spessissimo, quasi ogni sabato, a parlare. Dunque questo che è stato un rapporto che è cominciato, come dire, come un assedio, come uno stalking, come dice Jordi, poi si è trasformato in un rapporto di amicizia, e la nostra amicizia è durata 30 anni. Jordi, di Freud si dice, si raccontano molte leggende, che avesse una gran quantità di figli. Qual è la storia di Freud, il personaggio umano? What is the human character behind Freud, the artist? In his life, there were two things which he did a lot of. One was paint and the other was sex. Jordi mi racconta questa storia straordinaria, perché dice che Freud aveva due passioni. Una passione era naturalmente la pittura e l'altra era il sesso. Ha avuto 14 figli riconosciuti, ma sembra che ce ne siano altri 30 illegittimi. Un amante gli ha raccontato che ha avuto almeno 500 amanti e che nel 1963 ha avuto addirittura 3 figli da 3 donne diverse. La sua ambizione di essere un grande pittore era straordinaria, voleva essere come Velázquez, voleva essere come Van Gogh, e dunque c'è un ruolo poi dell'America, questo voglio chiedere a Jordi, con l'arrivo e con la scoperta da parte di Acquavella. What was the role of Acquavella in New York in his discovery as a great, great artist? Bill Acquavella had not wanted to take on Lucien, but when he saw his works in the studio... Acquavella all'inizio non è interessato, non gli interessa Freud, perché la sua galleria molto prestigiosa tratta soprattutto dipinti antichi, Old Masters. Poi però va nello studio e anche lui viene colpito dalla forza di questi quadri. Quadri difficili perché, dice Jordi, erano dei nudi provocatori con un forte contenuto sessuale, erano dei nudi anche un po' strani, dunque era difficile da venderli o da immaginare che potesse esserci un mercato. Ebbene, Acquavella poi spinge sui musei e alla fine Freud si afferma. La scoperta è enorme. E pensate, un suo quadro, dice, un quadro di un supervisor, di un dipendente pubblico, un supervisore che dorme, una donnona nuda, vende per 34 milioni di dollari alla fidanzata di un oligarca russo, Abramovich. Allora Jordi, un'ultima domanda. Beh, Sigmund Freud è una delle grandi icone del XX secolo, uno degli uomini chiave con lo sviluppo della psicanalisi. Ecco che suo nipote diventa uno dei più grandi pittori. E c'è qualcosa nei geni? Is there something in the genes? Both Sigmund and his grandson Lucien both did similar things. They both had people lie on beds or couches and they were observed. Ecco, Jordi chiude, devo dire, con questa osservazione fantastica, perché dice, beh, insomma, sia il nonno che il nipote erano legati da molte cose comuni. Una di queste era che entrambi amavano dialogare con i loro soggetti quando i soggetti erano sdraiati in un divano. Il nonno voleva ascoltare i loro pensieri, il nipote faceva i ritratti, e dunque suggerisce che il termine freudiano sia usato non soltanto in relazione alla psicologia, ma anche in relazione a questo modo con cui Lucian Freud poi rappresentava questo dialogo, un dialogo che sia lui che il nonno avevano e che aveva a che fare con la psiche della gente, la loro espressione, la loro sessualità, i loro pensieri segreti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Katy Perry torna al primo posto nella classifica Billboard dei dischi più venduti, il suo ultimo album Prism, 286.000 copie nella prima settimana. Di Katy Perry, Roar. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!